I voucher sono ormai diventati la forma di pagamento per i giovani e lavoratori già occupati, questo appunto spieghi nel tuo articolo, però abbiamo anche altre notizie che riguardano il mondo del lavoro. Per l'Ocse, lo anticipava prima Paolo, le capacità perse dei NEET, che in Italia sono il 27% dei giovani, pesano per l'1,4% del PIL. Poi c'è stata una ricerca dell'ACLI di qualche giorno fa, secondo cui il 65% dei giovani è disposto a non avere diritti pur di avere un lavoro, e intanto il MISE vuole attrarre investimenti rivendicando il basso costo del lavoro. E a questo punto, come dire, lascio la parola a te per tingere un quadro di quello che sta succedendo. Sì, diciamo che la fotografia che hai descritto fa tanto film horror, piuttosto poi in realtà è proprio quello che si vive ogni giorno, quindi è proprio la cruda realtà. Quello che, parto dall'articolo sui voucher, quello che ci dice questa prima ricerca molto approfondita sul mondo del lavoro accessorio è che appunto i voucher si stanno sempre più spostando su categorie di lavoratori molto giovani, per cui di fatto il lavoro accessorio, quindi i voucher, diventano la porta d'ingresso nel mercato del lavoro. Siamo passati in pochissimi anni dall'apprendistato, i contratti parasubordinati eccetera, ai voucher. Io lo ripeto sempre una frase, appunto in questi pochi anni si è passati dalla generazione 1000 euro al mese alla generazione 5000 euro l'anno, che se fosse così già sarebbe qualcosa, perché poi in realtà questa ricerca ci dice che i voucher, che sono dichiarati, perché poi appunto la ricerca ci dice anche che non è vero che i voucher fanno emergere il nero, ma anzi, al contrario, ne tengono sommerso molto di più, come se fosse un iceberg, e che i voucher corrisposti sono pochissimi, e in realtà in media tutti questi voucheristi, abbiamo avuto nel 2015 più di 1,5 milioni di lavoratori a voucher, non guadagnano, non dichiarano più di 30 voucher l'anno, quando per avere soltanto un mese di contribuzione ai fini previdenziali ne servirebbero più del doppio. E questo ne va perché appunto quando poi continuiamo a parlare di pensioni mai ci rapportiamo a quelle che sono le carriere discontinue dei giovani, ma proprio in una condizione quasi da fame. Questo è uno dei punti chiavi, che è la sostenibilità del sistema previdenziale. Quello che ci dice però anche questo rapporto è un'altra cosa, ovvero, e si lega con la questione dei salari, si lega con tutto quello che hanno fatto al mercato del lavoro, perché poi tutti questi fatti che vediamo non sono casuali, sono scelte politiche che sono state introdotte, che sono state implementate, di cui noi ne scontiamo un po' le conseguenze. E la prima cosa da dire è appunto che molti voucheristi in realtà sono contemporaneamente dei lavoratori dipendenti, circa 750.000 sul totale, quindi oltre la metà dei voucheristi sono anche lavoratori dipendenti, soprattutto part time, e spesso usano questi voucher per la stessa azienda. Ora qui io sottolineerei una cosa: usare la stessa azienda che usa i voucher per uno stesso dipendente che ha un contratto a termine, a tempo indeterminato, che sia full time o che sia part time, è illegale. Quindi tutte queste cose vanno denunciate, cioè è sfruttamento, è in qualche modo un abuso del diritto del lavoro. Però allo stesso tempo, cioè, perché una persona che comunque è un dipendente accetta un voucher? Beh, perché un part time involontario probabilmente non sbarca il lunario e di conseguenza ha bisogno di altri soldi per poter vivere. E qui si collega alla questione che in Italia abbiamo sia una sottoccupazione che è tutta economica, e dall'altro lato le imprese usano i voucher appunto come abbassamento del costo del lavoro, che ne va però di tutta la sfera dei diritti sociali ed economici degli individui. E poi arriviamo a queste bellissime locandine che il Ministero dello Sviluppo Economico distribuisce in giro. Tra l'altro è un progetto che è stato fatto dall'ICE, che è l'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero. Ora, qui, a differenza forse del Fertility Day, ma forse non è proprio differente, la questione non è la comunicazione, è proprio il fatto che questa roba è realtà. Cioè loro hanno fatto sì che l'Italia diventasse la Cina d'Europa, ma lo rivendicava, mi ricordo benissimo, quest'inverno anche il ministro Poletti, quando si augurava che in Francia non passasse la loi travail, perché così i lavoratori francesi non sarebbero stati competitivi tanto quanto gli italiani. Ora, in media, come dice quella locandina, tra un ingegnere italiano e un ingegnere francese ci sono circa 10.000 euro netti di stipendio annuo. E questo ne va poi in realtà anche di quelli che sono gli altri risultati della nostra società, ovvero l'OCSE ieri non dice soltanto che ci sono i net, quindi qual è il problema e la perdita di capacità produttiva, economica, di ricchezza dovuta ai NEET. L'OCSE ci dice che l'Italia è il paese in cui le disuguaglianze aumentano di più, è tra i paesi in cui in questi ultimi anni la dispersione dei redditi è aumentata maggiormente. E questo è un problema, perché ormai sappiamo, e non lo dice cioè un centro studi marxista, ma lo dice l'OCSE, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, che più c'è disuguaglianza, minore sarà la crescita. Allora, in un mondo che si riempie la bocca, no, per la crescita, la stabilità, eccetera, questo dovrebbe essere il primo problema politico, e poi dovrebbe esserlo in generale in termini proprio di obiettivi politici, che sia di una sinistra, che sia sindacale, in generale una sfera in qualche modo che risponde a bisogni collettivi. E tutto questo in Italia in realtà viene negato, e viene negato consapevolmente, non so come dire. Certo, ecco, tu dicevi appunto del rapporto OCSE, oltre alla dispersione, insomma, del salario, c'è cioè anche una concentrazione poi delle ricchezze. Leggevo dati, adesso non ce li ho sotto mano, però mai come in Italia, come dire, la famosa frase che l'1%, adesso non è l'1% in Italia, però detiene la ricchezza pari all'altro 99%, insomma, è realtà. Sì, questa è una realtà, ma che diventa sempre più radicale negli anni. Sul rapporto alla ricchezza adesso non ricordo, però per esempio tornando alla questione dei redditi, la ricchezza la vedremo quando usciranno i dati della Banca d'Italia, quelli dell'indagine annuale. Tornando ai dati, quello che sappiamo è che il 10% più ricco ha mediamente possiede in qualche modo più di 11 volte quello che detiene il 10% più povero. E questo, diciamo, diventa un problema perché io lo leggo anche molto, per esempio, alla questione del referendum, eccetera. Queste sono tutte cose, sono tutti rapporti di forza che sono andati in qualche modo radicalizzandosi negli ultimi anni. Quello che dovremmo fare inevitabilmente è cercare di ristabilire un po' di equità sociale, e non si può fare se chi detta la linea è Confindustria o è Marchionne, che guadagna 54 milioni l'anno, eccetera. Il problema però è un altro, che finché, e questo ce lo dobbiamo dire, finché in Europa si continua a dire fate stabilità, riducete il debito, eccetera, e avendo noi comunque dei governi che sono file europei, a che se ne dica, perché Renzi in questa manovra sta facendo recessione, taglierà altri beni e servizi pubblici, non c'è alternativa. Quindi se il problema in Italia sono bassi salari, c'è poco lavoro, ma soprattutto non si investe per crearne di nuovo, perché è vero che l'obiettivo dovrebbe essere quello di liberarci dal lavoro, dall'altro lato in Italia abbiamo un 25% di capacità produttiva in meno rispetto all'inizio della crisi. Questo significa che l'abbiamo persa, non che l'abbiamo sviluppata e robotizzata, e di conseguenza però questo diventa un problema per la condizione materiale della maggior parte delle persone. Ci sono delle soluzioni, sì, sicuramente se vogliamo partire proprio dal basso, sulle piccole rivendicazioni, io comincerei a denunciare tutti quelli che usano addirittura in modo illecito i voucher, perché poi in questa ricerca quello che si dice è ma a sto punto non sarebbe meglio abolirli, visto che comunque non stanno generando occupazione, non stanno generando stabilità, non stanno generando nulla. Neanche emersione del lavoro nero. Esatto, e loro si dicono ma in realtà è tutto un problema politico, perché le imprese non usando più voucher dovrebbero pagare di più i lavoratori. E quindi torna la questione del conflitto tra chi di fatto può permettersi di dire io ti pago a voucher e chi invece non dovrebbe lavorare a voucher. Cioè, è una questione proprio di dignità umana. E qui quindi rientra, cioè si innesca proprio il dato politico dell'azione politica nei confronti di questa situazione. Perché poi un'altra cosa che noi abbiamo in Italia, lo diceva pochi giorni fa l'Istat, è che le imprese comunque fanno profitti, aumentano i profitti ma non investono. Quindi di fatto tutto il valore aggiunto che si crea, o comunque una quota crescente di valore aggiunto, va ai profitti. Significa che non stanno andando ai salari, ma allo stesso tempo significa che non si stanno reinvestendo. Certo. Quindi generando ulteriore produzione, ulteriore occupazione, eccetera.